Questa qui è Piazza del Partadosh, che se n'hai voi altri, se ce n'hai dentro, se n'hai a vederla, la chi che è in porte, che è questo, poi che è un altro, chi di Drio proprio, e se ne va dentro da lì. E invece questa qui, a San Roque, se la vede più bene, perché l'ha fatta fornova, però la struttura sarebbe quella proprio della masera che era prima. No? Beh, che era dunque... Penso che entrate tutte e due le masere e che era una sessantina di donne che ne voleva. Dunque, stiamo parlando, mi sono sposata il 56 e avevo 23 anni. E ho fatto 10 anni, ho fatto niente. Però l'era stagionale, non era che era l'anno, tutto l'anno se ne va a stagione. No, guadagno mio, quando che sono nata su, c'avevo 5 lire all'ora. Ah, l'era miseria, allora l'era miseria, vedi che mico i soldi che c'avevo andare alla masera, il pagava il pan, che se ne aveva il pan, che si aveva tanto in casa, perché chi l'era proprio, noi la fanno le mai patia, perché che aveva la campagna, che era patate, che era fagioli, che era il zaldo, allora che era il zaldo, che era il forment. Sega, però come soldi era zero. Le messe sono anche sulla giornata. Vedi che sono la più giovane che è dentro. L'ho visto, l'ho portata apposta. Ho scommesso che avevo neanche 14 anni. Questa era la prima mister che si faceva dietro il tabacco, che ne era chi due masere a Nago. Ecco, qui sceneva in campagna e questo era il tabacco che era in campagna. Si tirava sotto tutte le foglie e se le metteva una sopra l'altra, si faceva così, dopo si mettevano del, noi che dicevamo in sol de iuta, che gli era quadrati una volta in guerra, gli mettevano dentro il feme, quella roba lì. Ecco, se il porteva alla masera, quando quella era raccolto, e che aveva delle stanghette, che non so quel che si dice in italiano, l'era 2,5 metri di lei inquadrato con dei spac, se che tacheva la gavetta, di gente, dopo non so in italiano quel che gli dicono, e che aveva un ago lungo così, e se piseva dentro le foglie dal gambo, una che la si guardava una con l'altra, e magari faceva, non so, 30 foglie per ogni stanghetta. Dopo se le metteva su nei caltri, stese, fino a che le veniva secche. Ecco, quando che le era secche, se le toleva zo, e se scominciava a metterle una sopra l'altra per far questa qua. Però il verde delle foglie che si faceva, la durava 3 mesi, ora che le veniva secche. Ecco, quando che le era secche, gli feva sempre sto rotondo grand, e le era tutto proprio, il gambo le era tutto fuori, resteva dentro le foglie, e resteva dentro 40 giorni perché le veniva, adesso, non ho la parola giusta, no, le fermenteva, ecco, le fermenteva e le veniva tutte colorate. E le metteva su sto banco e tiriva fuori tanti colori, che era il marrone scuro, il marrone chiaro, il marroncino, quel che era verso il verde, quelle cose lì. Il verde veniva da una banda, il marrone dall'altra, e si faceva su tutti questi colori. E quando che era fatto tutte queste affari, si faceva, non so come dire, che metteva in due stanghette così, perché facevo mica il mister Key, due stanghette così di quelle lì che si metteva su, e di nocciom si metteva su i vassetti. L'era massetti grossi così, e le foglie sempre interne però. Le ultime cose che si faceva, gli aveva dei cascioni di legno e veniva a mandare a Roma. Ecco, quella lì era la trafila dei 7 mesi e 8 che si lavorava l'anno, perché del più non si. Beh, i campi, che ne era qualcuno che andava, ma poco, era tutti sulla Masa, i puntanti erano sulla Masa. Tutta la piana della Masa, era tutta bacca. Perché dopo gli ultimi anni, aveva fatto anche del tabacco, che l'era sottotela, quello era più pregiato. Veniva proprio, però mi quando è che veniva quello, che avevo fatto forse neanche nam sotto, dopo mi sono sposata e non ho... Scendeva invece giugno a Torzulverde e dopo, prima che venisse secco, ti scomenzievi quando è che era ottobre, novembre, ecco, tenevi avanti 3-4 mesi perché il secco veniva più lungo del verde. Con nostalgia di quella maschera lì. Perché? Perché ho scominciato appena finire scuola, che non avevo neanche 14 anni, e sono nata fin quando mi sono sposata lì degli Ottabac. Ma lei era bella perché ne avevano super campagna in bicicletta, le combinere. Noi volevamo che ci acceressero perché sennò te perdevi magari il colpo da mettere dentro le foglie del lago, oppure non bisognava ciacerare tanto, no. Ciacereva lo stesso, ma quando è che noi ne vedeva? Quando è che feve l'ultimo dì, canteva sempre, ma tanto era giovane, dopo quando è che se ne veniva più grande, era signorina, no, per non vedere neppure, no. Canteva, quando è che gli diceva, ciao Masera, per stanche vesce, vigne, rosse, che sarò, se metto ora. Ciao Masera, ti resta qua.